ascolto. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Sì, ci sono io, ciao Gianni. Buonasera Natalino, buonasera a tutti. Ci sono solo io, non ha risposto nessuno. Ho fatto CQ poco fa, ma non c'è nessuno. Sto portando qualcuno dietro, non so se sia propagazione. No, forse il televisore. Ho capito. Lui oggi ho cantato poco là, ma adesso sono uscito perché adesso trovo in radio se c'è gente, visto che c'era poca gente anche lì. Ho capito, cos'è? Cementi Burinchivi, Tanto un po' così te del televisore, ti sovra molto, Natali. Cazzo, ho messo il volume a 1. Fatti un conto. Ma il microfono che è molto amplificato e si tira tutto dietro. Lo so. Adesso già va bene, adesso lo si sente più. Anda bene Meda. E me la drippa buona. Cazzo, una bomba. Ma quale hai preso? Quella già fatta oppure quella da pulire? Quella precotta ho preso, però l'ho pulita ugualmente, capito? L'accetto. A me non c'è quale mi piaceva, quella che mi regalavano i macellai quando macellavano, Vitelli, mi regalavano la trippa perché loro a pulirla non ce la facevano, non c'erano tempo, quindi mi dicevano portatela via tanto per buttarla, la portavo a casa, acqua calda, la mettevo a bagno un po' nell'acqua calda, poi la grattavo con un coltello, bene, la pulivo bene, ma c'è un altro sapore, mi ha detto, ui, che non te buona Issa. È uguale, cazzo, a parte che io la pulisco con l'acqua bollente e poi ci metto l'aceto dentro, capito, dentro all'acqua, e poi ci metti la trippa e così la pulisci ulteriormente, figurati, no, già era buona, già, capito, lunga è la cottura, è la tra pulirla e cucinarla, mi basta un po' di dente. E vabbè, così poi la sapori di più. No, è quella che praticamente la sai come la pulisciono la trippa, con la calce. E già lo so. Io li ho visti facendolo. Poi la lavano, una volta che è pulita la lavano e la mettono in vendita. Con la calce, che è allucinante, cosa che non ci fa di male, questa roba. Ti mettono la calce sopra e la fa bianca, bianca, bianca. E lo so. Io la lavo torna, infatti, proprio per quello. È verità assassina, perché non vi si nega, si vega che cosa gli ha. Già si farà in fondo. Poi la prelevo col coso e lo vedo se è pulita o no. Responsabile della morte dell'anziana, anche capito. Se l'assassino è maschio, lei. Io la rilavo e la giudaglia da pezzi più fini, tutto lì, insomma. Un travaglio, Emmy. Lì la fanno a pezzi grossi. È normale che sia così. Aia, e loro per fare prima fanno così. No, ma già è buona la trippa. Io gli metto anche un po' di peperoncino quando la faccio. Esce proprio buono a vivo. Molto formaggio. E anche io. Io ho messo la mentuccia, il basilico, gli ho messo fioda, sedano, carota, gli ho messo pepe, formaggio, insomma, e ci dà una bomba, il sugo. Già è buona, Naturalmente non è che te la puoi mangiare sempre perché è grassa, pare così, ma è grassa la trippa. No, no, invece dici che è dietetica la trippa, hai capito? Proprio la trippa dice che è dietetica, io pure pensavo che era così. Ma, boh, è pesante, Comunque già è buona, a me piace quella, mi piacciono i piedi di Daniello, è molto buoni. Come li faceva lì erano buoni, li faceva che ti si scioglievano in bocca. E agliata a me mi piace, vedi si gli fa di grusugo. col sugo piccante sono buoni, anche in agliata sono buoni, ma col sugo piccante è il massimo, ti mangi il pane, già lo so. Siamo tornati di nuovo di fronte. Solo che io molto piccante non ne gusto, ma ragazzi non mi sa tendini di stop. No, ma io non lo faccio molto piccante, si sente appena appena. Bisogna mettere a regolare la roba, se tu la metti esageratamente la fai piccante non è buona nemmeno, grave manca mangiarla, invece se ne metti appena appena gli dà sapore. Sì, già lo so, è così ho fatto, perché se no io soffrivo di emorroidi, subito mi si accendono gli stoppi. Una volta sono andato a pranzo da un amico, chiesi una pochiombezza di peperoni, sono chiesto una chieda con le emorroidi. Non te lo ricordi, ho portato la crevaglia, che non ce l'avevi, te l'ho portata io, un tubetto già iniziato. Per carità, vabbè, lo so, sono fastidiose. Gianni, avanti, chi mi chiama? Ma gliela hai messa tu la crema? E allora? No, per saperlo, continuate. Ma chi? Tu pure lo usai? Perché anche tu la vuoi? Ma che tu c'hai il morrui? A Luca gliela metto io la crema. Ah, si ringhi tu l'udito, muro. Lui è geloso, capito? Quindi ha visto che l'ha data a te, quindi la vuole anche. Ma l'ha finita la talina, l'ha usata tutta. No, già ce l'ho un bel po', già ne ho di quella crema, non si sa mai, quindi io per gli amici quello è altro, vero già? Vabbè, se non ce l'ha, ma grosso sono lui, aggrappo dopo. Sì, allora ragazzo, lì già c'ho lo strumento adatto io, vedrà che non ne vedi più. Ma così è fare male proprio in Natalia. No, già li faccio piano. Ma se mai a Remorudi fai male. Già riposo piano. Vedrà che non ne vede più i morrui dietro. Ma poi i figatini è una caccia se ne può mangiare. Ma te le immagini, boh. Oi. E allora lui? Sempre Buzzinelli, sì? No, ero dentro io. No, infatti è stata a far ritirarmi l'ISE. Io devo fare le 27. Ho preso l'appuntamento. Sono andato in banca a farmi, come si dice, quel foglio che si dà. Adesso non mi viene la parola esatta. E comunque ho fatto la fila in banca, sono andato alle 9:30, cazzo, e ho fatto un bel di fila lo stesso. C'era un bel di gente, ce n'era un bel che stavano facendo quel foglio. La giacenza c'è dal 31/12/2022. Ma quella la scarichi da internet, non c'è bisogno andare manco né alla posta né in banca. Come da internet? Io non ce ne ho di applicazione della banca. Lo speedy ce l'hai? No. Ma con lo speedy ce l'hai? No. Ah, allora sì. E manco la stampata per stamparlo. Quindi, per forza devo andare in banca. Signor. Tu Natali così hai fatto? Dal computer l'hai fatto? Sì, la giacenza media me l'ho scaricata da... L'ho già fatto lì, cioè devo andare domani sera devo andare perché ho fatto altra roba e quindi vediamo il tutto domani. Ho fatto ritirando l'ISE e facendo l'altro bonus Natali. Fatto tutto, vado a visitare i ciamani guidi, mi ha detto se no ti avvicini direttamente il prossimo mese tu e quindi un po'. Devi andare 120 giorni, tu aspetti 3 mesi, se non ti chiamano ti presenti tu, se no ti bloccano il tutto, mi Luca, occhio. No, ma a me mi ha detto, oppure ti avvicini tu direttamente il prossimo mese, e infatti io hanno esito i miei ciamani, tranquillo. E io farò altrettanto, io non aspetto che mi chiami, perché l'altra volta io ero andato andato all'ufficio di collocamento e invece mi hanno chiamato loro. Sono andato e mi hanno detto: ah, lei non deve fare nulla, perché questo, perché quello, ok, la giovì madrugosa me ne sono andato. Cazzo, non è il tuo visore la parigente. Che mi sono allontanato evidentemente. Sì, basso basso, ma amplifica già questa cosa, devo dire un microfono normale, il suo già ce l'ho, chissà dove l'ho messo. Ecco, quemme cocco. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Ciao, ciao. E allora? 60 minuti, ciao Antonio. Scrivimi l'altro bonus quando si fa, che non lo so. Ah, è il reddito di inclusione già. E quando te lo danno quello lì? A me mi hai detto che devo... che non devono passare oltre 180 giorni loro per dartelo, così hanno detto. Hanno detto aprile, comunque sono già in pagamento. Io qui sono il 26 gennaio. Tutto interrogativo. Se tu hai una pensione te lo danno. E ma c'è il reddito già, dipende dal reddito. E non devi superare un certo reddito. Già si vede dall'ISE, tu vai e glielo chiedi al CAF, così loro ti dicono il tutto, se la puoi fare te la fai fare e via. E intanto devo andare per fare l'ISE. E infatti, e tu gli dici, ma io posso rientro nell'ADI, tu gli dici ADI, perché è il reddito di inclusione adesso. E tu soldi di là. E stavano parlando 635 dovrebbero essere al mese. E non sommarino. Infatti non è meglio busciaccare a due che busciaccare a di lo Stato. Se rientro è perché ho preso già una pensione, diciamo, normale. Sì, ma tu chiedi se superi il reddito, non te ne, no, la, te lo dice che non la puoi fare. Se invece rientri ti dice di farla e la vai. Tu chiedi al CAF, che loro, tanto loro quando vedono lì se sanno se rientri o no. Ehi, ehi, adesso me lo chiedo. Si chiama reddito di inclusione, così è. ADI, Alfa, Delta, India. ADI, ADI, ok. Avanti Antu, tu fatto l'hai. Domani vado al capo che mi hanno fatto. No, cazzo di aria, ok. Non si può fare nulla. A bomba, gente a bomba ogni giorno. C'è di pizzare in Kiev, adesso devo andare in un altro CAF, mi hanno detto che lì trattano bene, e poi non possiamo scapparlo lì perché no, non è possibile, cioè, cazzo, un casino. E a te te lo dovrebbero dare anche tu? 6.000 euro non devi superare. All'anno? Così dico. Sì, arrivano più meravigliati a 6.000 euro, magari, non gli avrei chiesto manco niente, cazzo. Magari ci siamo tutti quei soldi. E allora non rientro là. E se superi 6.000 non rientri. Io prendo più del doppio. E allora cosa vuoi? Sto cercando di arrastrare. Anche la Rega hanno reintrodotto, perché provo a informarti lì, ma mi sa che è lo stesso. Ti dice se c'è qualche bonus per lui. Lo sapranno loro, no? Da lì se risalgono già. È morto, cioè. Guarda, non so cosa avrei voluto io, un buon posto di lavoro, dove non è andato manco a far nulla, non è andato, perché mi sarei campato bene, per carità, guarda. Buongiorno. Quanto è? Sì, buongiorno. Buonasera, comunque ne danno 500 euro perlomeno a me, poi gli altri non lo so, l'inclusione sociale è così, devo arrivare prima due messaggi, poi altri due. Ascolta Alessio, ma quanto non devi superare per dartelo? No, 2.300 mi pare, se non mi ricordo male. Allora... 9.000 li supero. Vabbè, comunque è compatibile, ce lo vanno lo stesso, magari ti danno di meno, però ce lo vanno lo stesso, non è... capito? Ecco. col fatto che sei invalido mi spetta forse. È appunto per quello, perché sei invalido. Quanti anni c'hai? 67 ce li hai? Cosa? 67 anni ci arrivi almeno? No. La famiglia è convinta che i nipoti stanno... Se 60 anni la beva. Tu chiedi già, dici che sei invalido, funziona ancora. Ritammi per l'auspicio è sicuramente per l'ISE. Sì, sì, lo sanno, l'hanno fatto l'anno scorso dove lo faccio quest'anno, quindi sanno tutto, mi hanno detto solo di portare quella giacenza e basta. E io ho capito, se ce l'hanno già lì il coso, è una persona il verbale. Improvvisamente, quindi... Comunque portatela presso che è meglio, sai, perché te ne scontano sul, dimmi. Un senso di tristezza e di angoscia. Dall'invalidità. C'è a dire un verbale che è meglio, lo sai che non la ciappiano. Così vai, una e l'altra. Quello dell'anno scorso sta dicendo Nazari. No, gli porti il verbale di invalidità e la giacenza. Così ti fanno l'ISE, no? Perché te ne scontano soldi dal reddito praticamente quando uno è invalido, no? E quindi è probabile che ti tocchi l'ADI. Tu guarda, chiedi per l'ADI. Scappa. Comunque devo pagare intorno a 26, però è un casino con la tariffa, perché ho chiesto ieri e mi ha detto che ancora non hanno approvato niente, perlomeno. Giuseppe, visto che c'ha nel computer già il suo incarico, però non... Forse la carta non è, cioè non è arrivato l'altro messaggio, vabbè ci vuole tempo fino al 26, quindi dovrebbero, io ho calato l'Inps, ho fatto il numero verde, e mi hanno detto in pratica che mi deve arrivare il messaggio e basta, e poi andare direttamente lì, per andare il messaggio alle poste. E gli ho detto, se arriva il 26, come faccio ad andare il 27, gli ho detto che è sabato. Quando ti arriva il messaggio, vai alle poste, ci sono già i soldi nella carta che ti danno. Prima di arrivare il messaggio delle poste che ti convocano ad andare a pigliarti la carta, capito? Non ti preoccupare, a ti arrivi, ti approvano la domanda. Speriamo che ve la proprio. Mi è arrivato l'altro messaggio, ho piccolo numero di telefono in pratica, ma sono arrivati due. Non so se sono arrivati anche a te. E anche a me sono arrivati, uno dell'INPS e uno del SISL. Adesso domani devo andare, domani sera al CAF, devo andare. Ci siamo litigate. E vediamo il tutto. Mi devo ritirare pure l'ISE, perché l'ho già fatto, ho già fatto tutto. Allora già va bene, anche io ho fatto l'ISE, l'ho fatto ieri. Sono andato insieme a Giovanna, ho fatto tutto, solo che mi sono dimenticato di ho dato la carta d'identità, quella di Simona era scaduta, adesso non è che faccio la carta d'identità nuova lì a Simona, poi gliela porto al CAF, è stato lì vicino alla Corte Santa Maria, quindi come esco direttamente lì dal comune, vado direttamente, gli porto la fotocopia della carta d'identità e è fatta, almeno non perdo tempo, se no se ne parla il 15 di febbraio, se no ammazzo pure. Sì, lo so, è un casino quest'ADI. Vabbè, ti danno il foglio provvisorio, ti danno, quando la fai, capito? Ti danno il foglio provvisorio, ti danno e con quello puoi andare a fare quello che vuoi. Gli porto la carta d'identità vecchia, loro la strappano, gli porto le foto, non fanno altro che quella in carta, sto parlando, non quella in plastica, non so che quella plastica l'avevo il foglio provvisorio, me la faccio fare in carta, così faccio prima, pago 15 euro, quelli che sono, più le fotografie mi sembra che sono altri 15 euro, e faccio tutto, quindi se no cazzo devo aspettare altri 6-7 giorni, come minimo. No, non hai capito l'italiano. Allora, quella dimenticala, non la fanno più. La cosa, la carta d'identità, il plan di coso normale, non la fanno più, quella dimenticatela. Quando tu vai a rinnovarla, ti danno il foglio provvisorio, devi aspettare 10, l'ho fatto ieri per mio figlio, devi aspettare 10 giorni fai e la ritiri, ok, con la delega addirittura devi andare a ritirarla della tua compagna. Funziona così, te lo sto dicendo. Vabbè, allora non cambia niente, anche se mi danno il foglio provvisorio è uguale, non cambia nulla. Ce l'ho, me l'ho dato anche a me quando ho fatto il reddito di cittadinanza, mi hanno dato il foglio provvisorio con la fotografia che si vede piccolina sopra, che non so qual è il foglio. Dopodiché vado, mi richiedo la catenziale di certificato. A me me l'hanno fatta subito la catenziale, ve la ridò direttamente, sono andato, me l'ha fatta e me l'ha data. No, a me mi ha 10 giorni mi fa aspettare. E così è, si prendono 10 giorni. Poi dove la vuoi far arrivare a casa? La vuoi far arrivare qua? Dipende dove la vuoi far arrivare. Cazzo, l'ho fatta ieri per Gabriele. L'ho fatta ieri per Gabriele, è uguale come tutti, l'ho fatta anche io da poco. Ed è così, la stessa storia. Devi aspettare 10 giorni. Ti danno un foglio provvisorio e tu con quello lì puoi continuare a essere valido il documento. Funziona così. L'ho fatta io, cazzo non ti sto dicendo balle, no? L'ho fatta io, volentieri l'ho fatta. E l'ho fatta io, la mia che ho rinnovato, ed era così. Addirittura era nuove, se sei maggiorenne, ti pigliai pure l'impronta digitale, ti pigliai. Lui adesso la fa il Ministero a Roma, quindi subito non te la possono dare la carta d'identità, capisco? Ti arriva dopo un po', perché arriva a Roma. E così poi è passato già un anno e quindi magari capito, adesso è così. E a Roma arriva, non ne fanno più loro, la fanno al Ministero e quindi praticamente arriva da Roma la carta d'identità. Gianni Vazzi di Bocchi di Intrulli fa per dare problemi alle persone. Se vai in macchina è un casino, la ciappa al parcheggio, se andi una usa magari la ciappa, la seconda usa non so se lo trovi il parcheggio, stai girando 3 ore e lì è un casino. A Conte Santa Maria l'hai fatta. Allora tra per arrivare a casa e non devi stare a cercare il parcheggio, sì, Conte Santa Maria, lì. Adesso si fanno. Vai tra per arrivare a casa, arriva lì apposta e non devi stare a nuda. Bisogna avere ma ciappa a casa quando arrivi, e quello è il problema, che io esco, quindi non so se mi trovano, se non so il giorno esatto che la portano, se è un pacco su quando la portano mi faccio trovare, ma se ti arriva così magari io sono riuscito a fare la spesa, a fare altre cose e non mi trovano, quello è il problema. Io preferisco andare a ritirarla perché così almeno sono sicuro che ce l'ho in mano e butto. Ma guarda, non ne sono sicuro, sicuramente arriva con posta normale, sicuramente. Non ne sono molto sicuro, ma arriva così, sì. Più sicuro che arrivi così, va. Te lo sto dicendo. Quanto dura quella tua, Anto? 10 anni, uguale. 10, vabbè, comunque si paga anche adesso, l'ho fatta per Marco io da poco, ma io vabbè, ci ho conoscenze, quindi telefono un amico mio, quello che le fa e mi ha detto di andare fuori orario, quando ancora è chiuso loro sono dentro, ma l'ha fatta subito. Ma fanno in fretta, fanno, quindi il numero fanno in fretta, non è che... Vabbè. Ma io l'ho trovata già pronta, ho pagato perché c'è da pagare adesso. Yes. 21 euro e 1, normalmente ho pagato con la carta, ho pagato. Ce l'ho, c'è anche un po' di scatto a conto, l'ho fatto. Una cosa del genere, ho pagato con la carta e ho pagato così. Mi pare comunque arriva con posta normale, tu vai te la prendi da sotto e boh. Ma è facile, cosa vuoi fare? Vabbè. E come mai l'hai fatto anche a cambiare che piccolino ancora? È obbligatoria. Non lo sapete, dobbiamo firmare noi due. Per qualsiasi documento è obbligatorio a casa di fa. Ci vuole, se lo fa il lice e tutto, ci vuole, cavolo. Ok. E hanno cambiato tante cose, da quando sono cresciuti i miei hanno cambiato molte cose, c'è poco da fare, sono passati anni, sembra ieri, avanti, Luca, sì. Sto facendo cosa già, continua. Hola. Ah, mi sentite? Mi sentite un po' la radio? Già ti sentiamo. Mia. Ora, ora chicos! Chico! Aggiungi la forza in alimentazione, ma non ne ha posso pure uso l'altra. Un attimino solo. Sono io che sto mettendo la porta del secondo che devo regolare una cosa. Ok, dai, a posto. E dovevo mettere fondo scala il rosmet. Per segnarmi le stazionarie, perché l'avevo regolato su un'altra parete. A me come mi sentite? Sì. Con le orecchie. Sì. Ma pensate. Ho capito. Ma le orecchie possono sentire male o bene. Ci sentiamo già. Capa. E quindi ho dovuto farlo anche a Tupino, ho dovuto farla. C'ha già un anno. Adesso le vogliono anche la carta d'identità. Non so a che anni gliel'hai fatta tu. Anche io quando ero piccolo era diverso. Fino a un certo accordo carta d'identità, nulla. Adesso no, ma la voni. Secondo che documento devi fare, l'altro giorno anche al CAP. Ma adesso non ci avete i documenti, cosa? Cioè, per il giorno l'Isera l'avevo già fatto. Adesso mancava il documento di Gabriele, mancava. Quindi quando c'ha 10 anni vede le fotografie di quando era piccolino nella carta d'identità. Ora l'ho portato in Viale Mancini, l'ho portato, è stato buono, fermo è stato buono, qua. Bravo, e se l'è fatta fare, se gli è fatto. Avanti, Luca. Luca ha detto che è impegnato, che sta facendo cose, sempre vendie, sempre con l'usagliatore in mano. Sta sempre inventando per fare i soldi. E allora? Si ha fatto l'ubrequenzimetro. L'ubrequenzimetro? E allora? Mi ha mandato il frequenzimetro che ha fatto. Attacchi all'apparato e ti segna la frequenza, anche se non ce l'ha. Io non l'attacco nemmeno, quello che ho io. Perché? Perché il mio è da laboratorio, se lo vedi è grande, più di un 140. E non so quanti cifri va, pure. Quello serve per salare gli apparecchi, capito? Quello che ho io è da laboratorio, un Racal. Certo, quello lì è enorme, dove te lo metti? Portalo qua, che lo spazio ce l'ho, lo metto nel mobiletto. Se lo vuoi dirlo dopo. Gina, ti faccio vedere cosa c'è, guardate quanto è bella questa immagine di Gina, ma non tanto a me mi prende solo il cazzo, ma è mano a fiducia a cose, vabbè che adesso apparecchi non ne ho, quindi già ci sta, e vabbè hai sotto il banco che sa cartonai, non c'ho più nulla, non lo vedi, sto uscendo con l'apparecchio della mutta, ma lo riesco, non ce l'è più. Gesù non ne ho io. No, mi ricordavo di sì, se mi ricordo male probabilmente. Come sta andando questo apparecchio? Che era tanto che non l'attaccavo, l'ho attaccato oggi perché almeno lo faccio andare un po', che era fermo. Anda bene Meda. Cavagava. Antonio, da te come va? Antonio è morto. Cazzarola. Tutti fuggendo io. Ui. Io stavo cantando con una tipa qui, ha ricevuto una telefonata e è dovuta uscire di corpo, mi ha detto scusarla e pazienza, stiamo facendo una gara e è ammollato. Sì, vabbè, sarà per un'altra volta, non vuol dire altra corsa già. Vabbè, ok Joe. Già nel caldo c'è appellazione. Cazzo, mi ho fatto arrivare questa lampada con la lente, cazzo che è bestiale già. Adesso già vedo bene a fare le saldature, perché è una lente che si illumina. Ma cosa c'ha il piede pure? Sì, la puoi mettere in tante posizioni, come vuoi tu. Come facciamo, dai? È grande, Emmy. Cazzo. Ma così devo usare che cosa? Oh, vedo dove metto le mani, capito? Ma specialmente se è roba piccola, quando ci sono i fili in mezzo che devi stare attento, che casino. Vabbè, comunque io c'ho un saldatore che va bene, è di quelli col pulsante, salda bene, fa le saldature lucide, belle. Non so di quelle, cazzo, quelle saldature tutte ribollite, tutte feie, freddi. Me l'ho dovuto comprare nuovo perché stavo cambiando la punta di quello vecchio, cazzo, e la Gibarrado. E allora me l'ho preso nuovo come quello che c'avevo. Cazzo, già ce l'avevo un anno col saldatore. Io da Fusaro l'ho comprato, però le punte poi le prendi il ricambio e non vanno bene, boh, non scaldano, io non capisco il perché. E vuol dire che non l'hai buttata vera la punta, se no devi cagli pai frutta. A me mi si era rotta la vite per mollarla, mi si era rotta. Ho cercato di toglierla e si è barrato l'usagliatori. E allora me l'ho comprato nuovo, come quello che avevo. E quello lì salda anche quando c'è freddo. Quello lì è di lusso veramente. Me l'ho preso uguale. E così di punte ne ho due, più quella che c'è nel saldatore. E dove l'ho preso? Da internet? No, da Fusaro l'ho preso. L'avevo preso da Fusaro. E infatti sono andato e me l'ha giubilato uguale. Hai fatto due. Quello l'ho preso da Fusaro. Non costano manco tanto e vanno bene, dai. Prima usavo quella pistola, io ne avevo una pistola, non mi ricordo dove cavolo l'ho messo. Ne avevo una pistola, l'ho comprato nuovo da... Praticamente aveva ritirato tutta la roba di un negozio di elettricità. Non è il Piduca, come si chiama? Mercatino delle Pulci. C'era la valigetta con il saldatore dentro, tutto quanto, a pistola, da 100 watt. Con la luce illuminava quando saldava, era bello. Non mi ricordo più dov'è. Boh, non lo trovo più. O se la giampadi. A me non mi sono mai piazzato. Sì, ce l'avevo anch'io, mi facevo le punte con il filo di rame. Cazzo, quel saldatore gli avevi un anno. Mi pare che chi mi era raggiunto se l'è facciato. E lui ce l'avevo quando stavo in campagna. Rosso era, bello cazzo. E altro, quei saldatori lì sono particolari, sono per fare saldature grosse, tipo, già ti posso dire, devi mettere un capocorda in un cavo di massa, roba del genere, con quello lì ti esce la saldatura bella, grossa, e la fa bene, capito? Riesci a sciogliere bene il rame, capito? E le mallottomba, lo stagno. Lo scioglie bene, capito? Te lo fa entrare bene dentro tutto quanto perché dà molto calore. Per certe cose piccole non serve, ma per fare saldature grosse tipo PL, queste cose qua, è di lusso. Per i capicorda quello lì, per pienare di stagno dove mettevo il cavo, capito? Per i cavi grossi serve. E allora, per quelle cose serve infatti, per i capicorda, l'ho detto. E queste andature lì mi sa che non le vedono manco più, non ci sono più. Li usavano il radio TV, li usavano, quando veniva a aggiustare il televisore c'erano queste andature lì. Billy! Oh carissimo! Oi Biondi! Tu camiamo! Su, andiamo! Ciao Manuele. Sì, ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Natalina, Natalina ci stiamo sotto. Buonasera a tutti. Manuele, ciao, ho visto che c'è un mio fan. Ho visto, cazzo, ma lo devo rubare la, la musica a Vasco Rossi. A tutti, io faccio tutti i tipi di musica. Mi diverto, Emanuele, è una mia passione, mi piace. Invece di usare la radio, a volte io quello, poi entro in radio. Quando non c'è nessuno, rientro in radio, non c'è problema, lo faccio viceversa. Fai bene, non passa il tempo, fai bene, fai bene. Cappa, ti è piaciuta il medley che ho fatto di Massimo Ranieri? No, ancora non l'ho vista quella lì, non me lo ricordo, non l'ho vista, quella di Massimo Ranieri non l'ho sentita ancora. Non mi sa che giri. Medley è praticamente sono tutte le musiche di Massimo Ranieri, tutte le canzoni. Ah, vabbè dai, un attimo, mi assento un secondo, vai con Natalino. E cappa, ti prendo io. Già, a te ti faccio mettere mano da mio nipote. Perché? Cazzo, allora sai chi è mio nipote? No. Lo so, i figli di Angelo, sai c'è. No, il figlio di Antonio, cioè non è neanche mio nipote, è mio cugino proprio. Massimo Melis, non so se l'hai mai sentito. Quello fa i pezzi di Ranieri, ma una voce che spacca i beat. Certo che lo conosco, Massimo è anche uno dei miei contatti, figurati. E lo adoro pure, mi piace anche come canta. Natali, lui lo fa per mestiere, capito? Io lo faccio per passione, non è la stessa cosa. Sì, lo so. Io l'ho sentito cantando, c'è una voce gatta tremenda. E l'ho visto da poco anche lì punti, quando c'era la festa, c'era lui. Hanno fatto tipo una corrida di punti, cantavano, c'era lui, c'era un sacco di cantanti della zona che cantavano. L'ho visto, no, canta bene, sì, no, non posso dire il contrario. Vale quale si chiama? Sì, vabbè, ma è tipo una corrida. Sempre che Gianluigi la presenta, si chiama Tale Quale. Chi su canta vero, beh, canta, è amico, molto amico canta di corso, di... di Cardellino, di Carbone. Chi su va una volta, ma te sei... Di Alberto, anche Alberto è un amico mio. Alberto canta bene, veramente. Mamma mia. E Alberto faceva i nomadi, c'aveva il complesso, andava a suonare per i locali le canzoni dei nomadi. Alberto e poi capo, solo che sì, bravissimo cantando, guarda quello che vuoi, solo che di capo, mamma mia, un bel divorzio. Ma lo sai chi canta bene pure? Vuota la sfoglia. Stefano, io l'ho sentito cantare dal vivo, cantare e suonare, suona e canta bene, e Vittorio Branca lo stesso. Passano dei periodi, dei momenti e... Tutti e due. Devi cambiare, devi... Cazzo, Vittorio lo stesso canta bene, se lo senti? Vittorio canta bene, sì. Io l'ho sentito, ti posso dire, capolo. Quello suona la chitarra e la tastiera, Vittorio Volpe, mica, c'è anche il baracchino, Vittorio Branca si chiama, di... capito, quello l'ho sentito cantando e suonando anche a lui, nel garage suo, e a Stefano pure l'ho sentito cantare dal vivo, Stefano lo stesso canta benissimo. Cavolo, io l'ho sentito, anche la figlia fa karaoke, io l'ho sentito, al vivo, cioè lo so al 100%, per Bianco Rubellini sta chiamando mia moglie, ci sentiamo dopo. Che cazzo. Lo sai che sto dicendo? Stefano Principe Azzurro mio, già. E lo so, E infatti quando andiamo nei locali che c'è karaoke non ci vuole mai stare perché non gli piace. A chi? A Stefano? Sì, io. E non c'è più in Sardegna, mi è fuori in continente lui. Per lavoro, capito, è andato via. Sì, già lo so. Solo frequenta Stefano. Quando viene qua ci vediamo anche. E io non l'ho più visto, cazzo. Curba cosa non so chi scendi io e cosa, mamma mia. Ma è a Brescia, eh. Sì, lo so che è a Brescia. Scappa. Guida lì scuola bus. E no, il mestiere suo sta facendo. Sicuramente è quello di esaltare la figura della donna. Capito. E adesso fra un po' se ne va in pensione, se ne dorme, a chi non può più guidare nel bigliano a fattenza. E vabbè, ma il mestiere suo vero era cantante. Lui cantava nei locali prima. Ma qua dice che non c'è il tanto, che ti danno 2 lire, che prendono gente che sono della matracca cantando, che gli danno poco, quindi si accontentano così. E lui andava nei night, andava, ragazzo, Stefano è un cantante di classe, no? Di matracci. Io lo sento cantando, eravamo ad una festa io e lui. E si è messo a suonare e a cantare, tu lo devi sentire. Non era Matteo Buccaria di che matracchi bisogna in giro. A chi tu si deve andare a cantare o devi bagare? E ha lavorato anche in alberghi, roba del genere, cantava in albergo. Sì, lo so, lo so. Non l'ha più vista Stefano, che? Io me l'ho fatta prendere la patente, perché intanto se non la usavo più mi toccava spendere un sacco di soldi per mantenerla. È la cosa che a me non piace e che non... Infatti ho la patente normale io della macchina. No, quello che non sta piacendo. Ah, te l'ho fatta defalcare? Sì, me l'ho fatta e ho dovuto pagare pure per declassarla. Perché intanto non valeva più, perché se tu non rinnovi il CQC è come la B, quella della macchina. Ha giubato dalla B e blu. Ha giubato un casino di soldi per farla declassare. Capito? Ma non potevi lasciarla, non facevi più il CQC e ti tenevi la B e basta. No, che mi toccava rinnovarlo, perché mi era scaduta, no? E allora sono andato a fare il rinnovo, gli ho detto me la declassi, non me ne faccio niente di questa patente. E ho dovuto fare fogli in più per poterla declassare, te l'immagini? Ha già dovuto pagare di più pure. Ha già pagato 150 euro, mi pare, ma pure rinnovare la patente di una macchina, mi da 2 anni. Mi hanno dato la B, ma ho pagato di più. Ho pagato, ho fatto anche fogli in più per poterla declassare, capito? Perché io avevo la patente.